l'essenziale è di andare, di muoversi, dove non importa. Adesso si direbbe che tutto il mondo stia traslocando. Perché trasloca la gente? Perché va in cerca di condizioni migliori di quelle in cui è. E per trovarle è costretta a traslocare, a muoversi, finché le trova. I torti che riceve, le ingiustizie che subisce, tutto questo è tollerabile, finché conserva la speranza di sistemarsi altrove. Nel respiro fragile di un bambino, nella luce anemica del mattino, la fatica povera di chi ha perso, nelle mille parole senza senso, nel coraggio di chi muore di paura, nella muta bellezza della natura, nelle guance dove scendono le lacrime, su nel cielo dove piangono le nuvole, nei rimpianti sbattuti in un cassetto, nel sorriso ipocrita di un dispetto, nell'incredula magia di un sogno avverato, nel silenzio di chi è stato dimenticato, nel tempo morto di una fotografia, nel triste ricordo dell'allegria, nell'autunno nelle foglie e nel vento, nel vapore rosa del tramonto, nell'attesa attonita di chi è attento. Si parla tanto di crisi, di recessione, e come spesso accade la storia sembra copiare se stessa. Molti dicono che bisognerebbe guardare al passato per andare avanti. E nel passato c'è già stata una gravissima crisi, anzi ce ne sono state tante, ma una in particolare, la cosiddetta Grande Depressione del 29. Ma io alla storia ho sempre preferito la letteratura. E c'è un bellissimo romanzo che racconta quanto è successo in quegli anni negli Stati Uniti e quanto, in forme diverse, sta accadendo ora. Il libro si intitola Furore, del premio Nobel John Steinbeck. Protagonista del romanzo è una famiglia di contadini dell'Oklahoma, i Jod, che come tanti furono costretti ad abbandonare la propria casa e la propria terra per andare alla ricerca di quella che sembrava la terra promessa, la California. E Steinbeck ci racconta il viaggio dei Jod e dei tanti emigranti che, come loro, si erano ormai trasformati in nomadi lungo strade statali in cerca di lavoro. Quella gente che aveva vissuto di stenti su magri prodotti di un pezzetto di terra, adesso aveva l'intero occidente in cui spaziare. E lo andava rovistando da un capo all'altro, e le strade erano convertite in fiumane di gente, e gli argini dei corsi d'acqua presidiati da falangi di straccioni. Ed ecco che questa gente, spodestata dalla propria casa, dalla propria terra, del proprio umile lavoro che gli dava dignità e sussistenza, si ritrova a trascinarsi senza meta sulle strade. Il moto li trasformava totalmente. La strada li trasformava, e la vita nella tenda, e la paura della fame, e la fame stessa li trasformava. E li trasformavano i bambini senza cibo e gli interminabili spostamenti. Ormai erano solo dei nomadi, non avevano sistema, non ragionavano. Dove c'era lavoro per uno accorrevano in 100. Se uno guadagnava 30 cents, l'altro diceva: io mi accontento di 25, e un altro: no, prendete me, ho fame, posso farlo per 15. I bambini hanno fame, io lavoro per niente, per il solo mantenimento. Così che le paghe continuavano a calare e i prezzi restavano invariati, alimentando una disperata lotta tra poveri. Fin da piccolo ho sempre avuto simpatia per i più deboli, quelli che soffrono, i piccoli e gli inadeguati. quelli che non riescono a conquistare la vita ma ne restano schiacciati e respinti, i reietti, gli esclusi. Ho sempre avuto un certo fascino per gli sfigati, gli artisti scalcinati e gli amanti timidi e sfortunati. Ho sempre amato i vincitori di sconfitte. Sì, vincitori di sconfitte. Vi chiederete che vuol dire? Beh, vuol dire che vittoria non è sempre sinonimo di merito e sconfitta non è sempre sinonimo di resa. E allora qualcuno, gonfiandosi il petto, potrebbe esclamare: l'importante è partecipare! No, non basta. Partecipare non basta. Bisogna dare il massimo, uscire dal campo stremati, con la consapevolezza di aver dato tutto quello che si aveva. È questa la sensazione che ti rende vincente in una sconfitta. Un vincitore di sconfitte ama il rischio perché non ha niente da perdere. Anzi, anche dopo una schiacciante sconfitta, sente che dentro di sé c'è ancora qualcosa che non ha perduto. Ed è questo qualcosa a fare di lui un vincitore. Cartello che ti sei messo intorno al collo. Aspetta, aspetta, che c'è scritto ho perso? Ma cosa? Vattene. È una scommessa? Hai perso una scommessa? È una penitenza? No, vabbè, si può sapere che hai perso? Tutto. Hai perso il lavoro? È la crisi, la chiamano così, è il bilancio negativo, sono i conti che non tornano. Vabbè, ma puoi trovarti un altro lavoro, è un problema che si può risolvere, dai. Oh, ma sai che si può risolvere ogni cosa? Ma non c'ero entrato da neanche un anno. Coco Pro? Continuativo? A progetto? Determinato? Part-time? Apprendista? Stagista? Dimmi che contratto hai e ti dirò chi sei. La verità è che il mondo si divide in vincenti e perdenti e io sto sempre dalla parte sbagliata. È sempre stato così, fin da quando ero un ragazzino. Non riesco mai a essere utile per qualcosa o a qualcuno. Ma tu lo sapevi che il consiglio di amministrazione dell'American Airlines, togliendo un'oliva a ciascuna delle insalate che serviva in prima classe, ha risparmiato $40,000 e ha sanato il bilancio? E allora io ho fatto la fine dell'oliva. Sei comunista? Sono solo uno sfigato. E allora sei comunista? No, sono povero. Beh, ma è la stessa cosa. Tu dici? Guarda, non lo so, io in realtà di politica non ci capisco niente, anche sin dai tempi della scuola mi ricordo che le mie compagne mi chiedevano: ma tu sei di destra o di sinistra? E io rispondevo: boh, io sto dove stanno i fighi. Mi ricordo ancora il giorno in cui lui, il più figo della scuola, venne verso di me. Era bello, con sta kefia, la sigaretta stretta tra le labbra. Arriva e mi guarda. Io lo guardo. E lui inizia a parlarmi di politica. Io volevo morire. Scusa, ma non puoi dirmi che sono carina? Non puoi chiedermi che squadra tifo o che segno zodiacale sono? No, lui mi parlava dei massimi sistemi. Da quel giorno ho sempre odiato i fighi e la politica. Mio nonno ha fatto la guerra. Mio padre le lotte sindacali. Io l'unica volta che ho protestato è stata per la rimozione del distributore di bevande. Io mi ricordo ancora i giorni in cui si eleggevano i rappresentanti d'istituto. Rallentava la produzione, dicevano. L'aula magna era gremita di tutti sti fighi. Io la mattina ci mettevo 3 ore per vestirmi, perché volevo essere carina, però non troppo, perché se mi vestivo troppo carina non era poi abbastanza da persona impegnata, da militante, era da superficiale, da figlia di papà. Ed io ero una figlia di papà e me ne vergognavo tremendamente. Allora una volta, per fare un po' più la fricchettona, mi sono pure fatta un piercing qua sul labbro. Risultato, ero una figlia di papà con un labbro bucato. Vabbè, almeno facevo donna vissuta. Comunque mi sarebbe piaciuto candidarmi come rappresentante, ma non avrei saputo cosa dire. Bastardi, un caffè non si nega a nessuno. Oh, non è mica facile parlare davanti a tanta gente. Neanche 2 o 3. Tu sei mai stato rappresentante di classe? Io in classe non rappresentavo neanche me stesso. Sì, ma quando andavi a scuola cosa sognavi di fare? L'unica cosa che speravo era di non fare la fine di mio padre. E cioè? E cioè fare tutta la vita lo stesso lavoro. Lavorare così tanto che diventi un tutt'uno con il tuo lavoro. Non l'ho mai visto ridere. Chi? Mio padre. E non ti sto dicendo che non l'ho mai visto felice, perché quello già sarebbe normale. È che proprio non l'ho mai visto sorridere. Anzi no, una volta. Quando? Ma non lo so se vale, è in una foto che c'ha mia madre sul comodino. Mio padre da giovane, vicino a uno di quei cosi del Luna Park. Sai quella specie di pungiball che misurano la potenza? Ecco, mio padre è lì, accanto a mia madre, vicino a questa scritta luminosa che segna il massimo dei punti. E lui è lì, tutto fiero, con le maniche della camicia arrotolate. L'estate in cui si sono conosciuti. Ecco, io quel sorriso a mio padre non gliel'ho mai visto. E lui di cazzotti ne ha solo presi. Ma almeno era un incassatore, sempre in piedi, mai un ritardo al lavoro, mai un richiamo. E per premio si è preso la silicosi. Ma a noi la fabbrica ci dà da mangiare, così diceva sempre. A noi la fabbrica ci dà da mangiare. E lo sai cos'è che mi fa più strano adesso? Cosa? Che io sarei pronto a darmi fuoco, pur di avere un lavoro come quello di mio padre. Io che dico parole senza senso, io che sono matto. Io che piango di gioia, io che a volte scappo. Io che canto la passione, vivo in un film o per una canzone. Che so essere me stesso in mille modi e vedo meglio ad occhi chiusi. Io che guardo, guardo, divento muto. Io che non penso. Io che non tocco. Io che non sputo. Tu non venirmi a dire che non so capire. Cosa ti giro nella testa e non dirmi che oggi è festa. Non continuare a dire che non so capire. Cosa ti gira nella testa e non dirmi che oggi è festa. Io chiamo il clown le sconfitte, i miei amori sono poesie mai scritte. Sono segreti intrappolati, io che vivo di baci rubati. Io che ascolto i tramonti e guardo i treni partire. Io che quando mi incazzo non so mai cosa dire. Io che a volte ci credo meno, io che a volte sono solo e tremo. Io che aspetto l'alba dalla parte sbagliata. Tu non venirmi a dire che non so capire. Cosa ti gira nella testa e non dirmi che oggi è festa. Non continuare a dire che non so capire. Cosa ti gira nella testa e non dirmi ancora che oggi è festa. I latifondisti arrivavano sul posto, o più spesso i loro rappresentanti. Arrivavano in macchina e saggiavano con le dita la terra arida e qualche volta facevano eseguire dei sondaggi in profondità. E finito il giro, i latifondisti, o i loro rappresentanti, venivano sull'aia e senza scendere dalle vetture parlavano i mezzadri attraverso il finestrino. Taluno di questi rappresentanti si mostrava umano perché odiava la parte che era costretto a recitare. E taluno era irritato di doversi mostrare disumano. E taluno si mostrava freddo e insensibile, perché da tempo aveva imparato che il padrone, per essere tale, deve necessariamente mostrarsi insensibile. E nel loro intimo, tutti quanti, si riconoscevano a malincuore strumenti di una forza inesorabile. Se poi il proprietario della terra era una banca o una società finanziaria, i rappresentanti dicevano: la banca intende, la banca vuole, ha bisogno, esige. È quasi che la banca o la società fosse un essere mostruoso, dotato di intelletto e sentimento, che li tenesse prigionieri nei suoi tentacoli. Né s'assumevano alcuna responsabilità, in quanto essi si ritenevano esseri umani e schiavi, laddove le banche erano al tempo stesso macchine e padroni. Alcuni rappresentanti erano orgogliosi d'essere schiavi di così possenti e inesorabili padroni. E se i mezzadri provavano a chiedere qualche altro prestito, Allora i rappresentanti rispondevano: «Ma la banca non può, diamine! Non è una creatura che respira aria, che mangia polenta. Respira dividendi, mangia interessi. Senza di questi muore, come morireste voi senza aria o senza polenta. È triste, ma è proprio così». Andati via i latifondisti, i contadini s'appoggiarono coi gomiti sulle staccionate e osservavano il gran turco rovinato, con solo qualche strisciolina verde sotto la polvere. Gli uomini non parlavano e si muovevano appena, e le donne uscirono di casa e vennero a mettersi vicino ai loro uomini per sapere se era questa la volta che i loro uomini si sarebbero dati per vinti. Le donne, senza farsi vedere, studiavano i visi dei loro uomini e i piccoli vicino disegnavano figure nella polvere con le dita dei piedi, e anch'essi, inconsciamente, studiavano i visi dei genitori per vedere se si sarebbero dati per vinti. Dopo un poco, i visi degli uomini perdettero la loro stupefatta perplessità e acquistarono un'espressione dura, collerica, ostile. Allora le donne capirono che erano salvi. Le donne e i piccoli avevano l'intima convinzione che nessun disastro era catastrofico se i loro uomini non si arrendevano. Non sarebbe mai venuta la fine finché la paura si fosse tramutata in furore. Potete governarci, ispezionarci, spiarci, legiferarci, indottrinarci e catechizzarci. Ad ogni nostro migliore impulso, ad ogni nostro minimo movimento, potrete censurare, tariffare, timbrare, squadrare, licenziare, riformare e raddrizzare. E ancora potete tassarci, taglieggiarci, sfruttarci, spremerci e derubarci. E alla minima resistenza, alla sola prima parola di lamento, reprimerci, vessarci, giudicarci, condannarci, imporci di lavorare fino a 80, 90, 100 anni. Tanto sicuramente vivremo più di voi, che siete già vecchi, erosi dall'egoismo e dall'ambizione. Voi, sceriffi di Nottingham, miliardari depressi, preti che parlate solo di soldi, contabili del nulla, scribacchini dell'ovvietà, non avete futuro, solo un tempo vi appartiene. E ancora per poco, speriamo. Questo presente scialbo e avido, come voi, sentinelle ottuse della nozione, schiavi dell'aritmetica, piegati ai dati di fatto senza un briciolo di fantasia, ingobbiti nella vostra petulante saccenza, pavidi esattori che si nascondono dietro il pretesto del rigore, della pubblica utilità, saccheggiatori delle più belle speranze, delle più sane aspettative, in nome di un ipocrita interesse generale. Avremo comunque figli più sorridenti dei vostri, a cui sapremo raccontare favole più sagge e costruttive delle vostre leggi. E nei loro sorrisi, nel dolce e paziente sostegno delle nostre mogli, nella generosità dei nostri amici, nella fiducia dei nostri genitori, nonostante la fatica e la rabbia, oltre la paura e l'incertezza a cui vorreste inchiodarci, sapremo essere allegri, perché la nostra allegria non è mai stupida. Ed è sicuramente più onesta e meno vuota della vostra serietà. E poi, come dice Prévert, nonostante tutto, bisogna tentare di essere felici. Non fosse altro che per dare il buon esempio. Le storie d'amore sono come le favole, come la favola di Cenerentola, ma al contrario. Iniziano con lui che ti fa sentire una principessa, che ti porta a ballare, ti invita fuori, ti fa i regali, e finiscono con te che sei una sguattera. La sguattera non solo sua, di lui, ma anche della madre di lui. Scocca la mezzanotte, il sogno svanisce e la carrozza si trasforma in un'utilitaria zero optional acquistata con sudore e lacrime in 80 comode rate. E poi tutto diventa abitudine, noia. E anche quando proviamo con tutte noi stesse a cambiare le cose... Amore, per quest'anno ho una sorpresa. Che ne diresti di una bella vacanza intelligente? Cos'è? Tu non vieni? Appunto, ci riprovo. Caro, ti va di passare una bella serata? Va bene, cara, ci vediamo domani, ciao. Appunto. Oppure anche noi comunque ci sforziamo di entrare nei loro cervellini per cercare di capire cosa diavolo ci sarà mai dentro. Caro, ma tu preferisci una donna bella o intelligente? Ma nessuna delle due, cara. Mi piaci così come sei. Anche loro devo dire che ci provano. Ma perché hai comprato un reggiseno se poi non hai niente da metterci dentro? Se per questo anche tu porti le mutande. La passione però, quella, per fortuna, non svanisce mai. Tesoro, dimmi qualcosa di caldo. Datte fuoco. Noi donne, la vita ce la portiamo sulle braccia. Voi altri ve la portate dentro la testa. L'uomo vive a scosse. Muore un vecchio o nasce un bambino, sono due scosse. Compra una terra o perde la sua, sono due scosse. La donna si lascia vivere, un po' come l'acqua di un fiume. Piccole anse, piccole cascate, ma l'acqua continua a scorrere. È così che noi donne vediamo la vita. Nessuno di noi muore del tutto. La gente continua, con qualche cambiamento magari, ma continua. Donna sono, una volta bambina. Mai troppo, o forse per troppo poco. Cresciuta in fretta, avida di vita. Avida di un'affermazione effimera, di una maturità precoce, di una bellezza saggia. Ma quante hanno una carriera invidiabile? E quante ne sono aggredite dai rimorsi? E poi per quanto tempo? Quanto? Mai troppo poco per guardarsi indietro e mai troppo lento per capirlo in tempo. Che danza è questa vita? Che passi falsi, che tempi scomodi. Vado di fretta oggi, vado di corsa, in gara con me stessa. Supero i miei limiti. O li nascondo dentro la borsa. Mi faccio bella, ma non so più perché. Non so più per chi lo faccio. Per me stessa. Oggi si usa dire così, no? I complimenti io li ignoro. Vado dritta al sodo. Voglio essere notata, non apprezzata. Voglio essere me stessa e lo so essere in mille modi. Donna versatile, mai troppo stanca, sempre troppo sola. Gli uomini, li spavento. Così mi dicono le amiche del caffè, dell'aperitivo bevuto tutto d'un fiato, delle notti in fila tra un guardaroba e un bagno. C'è da aggiustarsi il rossetto, sempre, mai una sbavatura. Mai. Ho l'anima smagliata, graffiata, impigliata in uno stereotipo che mi appartiene e che mi ha plasmato, reinventato, divorato. Mangio solo la sera. Lavoro al computer fino a tardi. Ti ci vorrebbe un uomo, dicono. Ne avessi mai incontrato uno. Uno vero. Donna sono. Ancora per un bel po'. Una carriera in ascesa, pochi piatti da lavare. Solo uno, il mio. Donna sono per me stessa e per nessun altro. Donna sempre in corsa, in gara, in appalto a qualche strana ditta che mi ha barattato la solitudine con la libertà. Donna sarò per lui. Quando mi fermerò di fronte al suo sguardo, il primo sguardo che mi bloccherà in mezzo alla strada, in un bar qualunque, nel riflesso di una vetrina sfitta, mi si avvicinerà piano e mi riconoscerà. Mi aspettava da tempo, lo so, e mi pensava così, proprio così, e mi prenderà per il lato migliore, quello che stupirà anche me stessa. Il mio uomo sarà una volta e per sempre. C'è stato un tempo troppo bello e troppo breve, un tempo nel quale non avevo ancora le catene. C'è stata una ragazza, non ancora donna vera, che sperava nella vita come quando si fa sera. Ho scritto per una vita poesia la persona sbagliata, poesia di un sogno ricorrente, di rima baciata. Ma i rimpianti se ne sono andati via lontano, i rimorsi quelli invece sono restati nella mano. Ma che storia, tutta un'altra storia, quando guardo ed aspetto alla finestra, vede tutto quello che di lei mi resta. Era bello ed era dolce come uno schiaffo, contraddittorio e dispettoso, passo dopo passo. È diventata donna, Madonna veramente, e anche se non baciavo bene non gliene fregava niente. Ma che storia, tutta un'altra storia, quando guardo ed aspetto alla finestra, ed è tutto quello che di lei mi resta. È stato un tempo troppo bello e troppo breve. La crisi americana coinvolgerà in quegli anni anche l'Europa, in particolare la Germania, che subì il contraccolpo più violento. La crisi provocò milioni di disoccupati che andarono poi a formare la base di consenso che portò il partito nazista al potere nel 1933. Nel complesso, nonostante un accenno di ripresa, la crisi non fu completamente superata fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Già, la guerra, in cui non esistono vittorie, e se esistono nascondono mille più sconfitte. Non c'è una vittoria pulita. Ogni conquista si porta dietro così tante perdite. La storia è fatta di nani complessati e di vincenti finiti male. La storia è fatta dall'ottusità dei potenti e dal coraggio dei disertori. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice, terra terra, di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente, più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato, mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità per le strade di Spagna, di Francia, di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Io armi non ne ho. La storia è fatta anche di eroi improvvisati. Eroi per caso, per coraggio istintivo, che nasce dalla paura, dalla rabbia del sentirsi sopraffatti. Di chi preferisce la dignità all'onore, di chi preferisce resistere invece che obbedire. Paolo Braccini, detto Verdi, di anni 36, docente universitario, nato a Canepina, Viterbo, il 16 maggio 1907, Nel 1931, allontanato dal corso allievi ufficiali per professione di idee antifasciste, all'indomani dell'8 settembre 1943 abbandona ogni attività privata ed entra nel movimento clandestino di Torino, arrestato il 31 marzo 1944 da elementi della Federazione dei Fasci Repubblicani di Torino, processato il 2 aprile 1944 e fucilato il 5 aprile 1944. 3 aprile 1944. Gianna, figlia mia adorata, è la prima ed ultima lettera che ti scrivo. E scrivo a te per prima, in queste ultime ore, perché so che io seguito a vivere in te. Sarò fucilato all'alba per un ideale, per una fede, che tu, mia figlia, un giorno capirai appieno. Non piangere mai per la mia mancanza, come non ho mai pianto io. Il tuo babbo non morirà mai. Egli ti guarderà, ti proteggerà ugualmente. Ti vorrà sempre tutto l'infinito bene che ti vuole ora e che ti ha sempre voluto, fin da quando ti senti vivere nelle viscere di tua madre. So di non morire, anche perché la tua mamma sarà per te anche il tuo babbo, quel tuo babbo al quale vuoi tanto bene, quel tuo babbo che vuoi tutto tuo solo per te e del quale sei tanto gelosa. Sapessi quante cose vorrei dirti, ma mentre scrivo il mio pensiero corre, galoppa nel tempo futuro che per te sarà, deve essere felice. Ma non importa che io ti dica tutto ora, te lo dirò sempre di volta in volta con la bocca di tua madre, nel cui cuore entrerà la mia anima intera. Vai sempre a fronte alta per la morte di tuo padre. Negli anni della guerra si contavano i caduti in battaglia. Ora si contano altri tipi di caduti, altri tipi di eroi. Savino, 52 anni, morto in un cantiere edile di Faenza, cadendo da un'impalcatura a 7 metri d'altezza. Onofrio, 67 anni, morto nelle campagne di Vibo Valentia, schiacciato dal ribaltamento del suo trattore. Walter, 27 anni, operaio, morto folgorato mentre compiva una manutenzione delle linee elettriche della ferrovia di Livorno. Emiliano, 49 anni, operaio, morto a Pistoia in un vivaio floreale, colpito alla testa da un muletto. Sebastiano, 27 anni, operaio, morto a Pozzuoli mentre Antonio, lavorava alla ristrutturazione anni, di un autotrasportatore, morto Giuseppe, sulla autostrada 44 1, schiacciato anni, dal proprio di una camion. Piccola impresa edile. Marco, 30 anni, operaio, Lorenzo, 33 morto anni, morto schiacciato da una trave di ferro mentre lavorava in una carpenteria metallica. Salvatore, 51 anni, operaio, morto in un cantiere per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. C'è un uomo che sorride in fondo alla via, un altro gentilmente promette una bugia. C'è un uomo che balbetta dolci poesie francesi, un altro che ancora cerca mentre gli altri si sono arresi. C'è un uomo che cammina e un altro sta seduto, c'è un uomo che non ha sete perché non ha mai bevuto. C'è un uomo fastidioso che ripete io sono, c'è un uomo che un uomo se chiede perdono. C'è un uomo che cammina e un altro sta seduto, c'è un uomo pronto a giurare a chi non gli ha mai creduto. C'è un uomo in partenza che saluta la ferrovia, un altro che minaccia vuole andarsene via. C'è un uomo nella pioggia che si bagna senza riparo, c'è un uomo dallo sguardo folle che urla fermi o sparo. C'è un uomo solo che non è mai uscito di casa, c'è un uomo nella vita non ha mai chiesto scusa. Ogni uomo che è in cerca di sé, il giorno che si trova non ricorda il perché. Ogni uomo perso che si è ritrovato, perso che non ha mai mollato, un uomo perso che non ha mai mollato. E torniamo a Joe Steinbeck e al suo bel libro, alla famiglia dei Jod e al loro furore, alla loro forza. Arrivati in California, i Jod scopriranno che poi la California non è proprio la terra promessa. Si ritroveranno infatti immersi nel traffico della manodopera a buon mercato, dello sfruttamento dei proprietari terrieri, bollati dall'umiliazione della miseria, dal disprezzo della gente della California. Tom Jod, il figlio maggiore, quello più ribelle, si avvicinerà al sindacalismo, sarà braccato dalla polizia, così come l'altro figlio, il più piccolo, Al. La giovane Rosa Thea, invece, incinta, sarà abbandonata dal marito, Connie, fuggito da solo in cerca di fortuna, e perderà anche il bambino. Quella che ci appare alla fine, insomma, sembra una famiglia distrutta, sconvolta nei suoi valori e nelle sue credenze, eppure si intravede uno spiraglio di speranza. Molti pensano che nei momenti difficili la gente si divida, altri invece che è proprio nella difficoltà che la gente si unisce, ed è questo quello che c'è nel libro, è un concetto di unità, di comunione, l'idea della gente come una grande anima, come quando il predicatore racconta a Tom di uno che una volta era partito nel deserto, era andato lì per cercare la sua anima e aveva scoperto che lui, un'anima sua, non ce l'aveva, ma che la sua era solo un pezzetto di un'altra anima immensa, e quella piccola parte di anima da sola non serviva a niente, ma serviva soltanto quando stava insieme agli altri pezzi dell'anima grande, e cioè quando si vive in mezzo agli altri uomini. La stessa speranza viene trasmessa nel finale del libro con un'immagine molto forte e molto significativa. Rosa Thea, come abbiamo detto, ha perso il bambino ed è disperata. Non ha più quel figlio che portava in grembo, ma ha ancora il corpo da mamma. Qualche giorno dopo, la famiglia è costretta a cercare un nuovo posto dove alloggiare, perché un pesante nubifragio gli aveva distrutto la baracca in cui dormivano. La mamma e Rosa Thea, le due donne, trovano una capanna apparentemente abbandonata. Entrano per provare a riposarsi lì dentro, ma trovano lì dentro un ragazzo ed un vecchio, probabilmente il padre, che sta morendo di fame. La mamma e Rosa Thea allora si guardano, e poi la ragazza, sotto consiglio della madre, si diresse a passi lenti verso l'angolo e stette qualche secondo a contemplare, la faccia smunta e gli occhi fissi, allucinati. Poi, lentamente, si sdraiò accanto a lui. L'uomo scosse lentamente la testa in segno di rifiuto, e Rosa Thea allora sollevò un lembo della coperta e si denudò il petto. «Su, prendete», disse, offrendogli il proprio seno. Gli si fece più vicino e gli passò una mano sotto la testa, qui, così. Con la mano gli sosteneva la testa e le sue dita lo carezzavano delicatamente tra i capelli. Ella si guardava attorno e le sue labbra sorridevano, misteriosamente. Come i desideri dei condannati. Ultimi. Come i minuti interminabili di cui è fatta l'attesa. Come il capolinea. Come l'ultima fermata di una bella ragazza che vive in una brutta periferia. Ultima. Come la parola di chi pretende di avere sempre ragione. Come l'occasione di chi nella vita non ne ha mai azzeccata una. Come il traguardo di chi è più lento. Ultimo. Come il respiro di chi ha deciso di prendere il volo. Come la speranza a morire. Gioca d'azzardo, qui si vende l'arte, qui si scrivono cartoline, qui c'è un treno che parte, qui c'è traffico per strada, qui c'è qualcosa che non va, qui c'è chi perde il lavoro e chi compra la dignità, c'è gente che lotta, c'è gente che decide, c'è chi fa i miracoli, c'è chi invece si uccide. La religione non manca, è una forma di scaramanzia, qui si fa il tifo per la pace, per la democrazia. Qui e solo qui si confonde la libertà, qui e solo qui c'è chi svende la dignità. Fanno manifestazioni e si vota liberamente, qui si fa beneficenza al miglior offerente, qui non c'è neanche il tempo per esprimere un'opinione, conta solo chi vince, chi va in televisione, qui si confonde l'anarchia con il qualunquismo, fai l'amore su internet, la moda, il buddismo, qui non c'è mai stato spazio per chi non è produttivo, è una gara a chi è più forte e a chi è più cattivo. solo qui si confonde la libertà. Qui e solo qui c'è chi svende l'umanità. Qui non ci sarà giustizia, non ci sarà pietà, fino a quando il primo diritto non sarà la libertà, fino a quando anche gli ultimi non avranno la loro libertà.